Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano, 87.9, la modulazione di frequenza. Africa, Africa, won't you be free? I know them system is a plot against my people. But if they be for us, nobody can be against us. 06 49 17 50 il contatto telefonico. I don't know who can try to be my enemy. My Africa want to be free. Oh, Africa, Africa, Africa want to be free. Mama Africa, Africa want to be free. Insieme fino alle 18. E vi ricordo che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa radio, il conto corrente postale è il 6180 40 01, intestato a Cooperativa Laboratorio 2001, via dei Volci 56, Roma. Ed è disponibile presso i nostri studi anche l'edizione 2000 e 2014 di Scarceranda, agenda autoprodotta contro il carcere, agenda più quaderno al modico prezzo di 12 euro. Voi potete passare tranquillamente qua in radio per comprare l'agenda e per sostenere appunto Radio Onda Rossa. Africa, Africa, Africa, won't you be free? Allora, 16.46, cominciamo con le nostre selezioni per questo sabato, selezioni che verranno dedicate alla scena musicale angolana, che è una scena musicale effettivamente non molto conosciuta, ma interessantissima, una scena musicale che poi vede, diciamo così, il periodo migliore in quella fase che va dal inizio degli anni 60 fino a dopo gli anni 70, dopo la vittoria della rivoluzione anticoloniale. Allora cominciamo con un assaggio, insomma, di questa scena musicale. Loro sono i Rei de Paletinho con questo brano Mamu Kueno, e poi appunto magari parliamo un po' e approfondiamo la scena musicale angolana. Mucueno in questo Redu Paletigno. Il Paletigno è un tipo di vino, perché lui appunto racconta di uno zio che insomma amava bere questo vino particolare, questo liquore particolare a Luanda. E la scena musicale angolana, gran parte della produzione musicale più interessante, che poi corrisponde alla cosiddetta Golden Age della musica angolana, risale all'ultimo periodo del colonialismo portoghese, in un contesto di guerra anticoloniale condotta dal Fronte Nazionale di Liberazione Angolano, l'MPLA, e poi c'era all'epoca anche l'Unita, dal 61 al 74. Molti artisti, molti esponenti di questa scena musicale poi da questa guerra furono coinvolti e travolti, e in quel periodo che i residenti delle Museke, che sono le bidonville, che è un termine kibundu che significa quartiere rosso dal colore della terra con cui si costruivano queste case, producevano un nuovo genere di musica che li aiutava a sentirsi angolani diversi e indipendenti dal governo coloniale. Proprio in queste bidonville, dove oltretutto arrivavano anche, diciamo così, non solamente gli africani che provenivano anche da altri posti dell'Africa, perché era il periodo in cui l'Angola cresceva grazie all'esplosione della produzione del caffè, e quindi attirava lavoratori, ma questi erano anche in pratica delle elite urbane che erano costrette a spostarsi dal centro di Luanda verso queste zone periferiche, queste bidonville, appunto le Musekes, costrette dal gentrificazione all'epoca di Luanda, in quanto si costruivano case, palazzi per i portoghesi residenti appunto in Angola. E qui siamo praticamente intorno in quella fase in cui nasce la guerra di liberazione, che poi avrà il suo acme nel 1974, dopo la rivoluzione dei garofani in Portogallo. Ma c'è un personaggio che sicuramente è stato dominante, importantissimo nella scena musicale dell'Angola, e lui è José Adelino Barceló de Carvalho, classe 1943, conosciuto come Bonga, con questa sua voce particolarissima, roca. Lui se ne andò a Lisbona perché appunto era un oppositore del regime coloniale portoghese, e quindi aveva cominciato a giocare anche a pallone, giocava nel Benfica, era un vero e proprio atleta. Poi appunto fu costretto all'esilio, e uno dei pezzi insomma che più famosi è sicuramente questo Mulemba Shangola, e allora lui è Bonga. Shangola, Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, kasanzu wa bishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata, Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, Mulemba Shangola. Ayuwe Mulemba Shangola, ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etu mujete. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulembera Milena, Damasia Kalundu. Africa non solo tu. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Salvador da tradição, Mulemba Shangola. Unidas nações, soltai-vos agora. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Kasanzu wabishila, menekenu mukwenu. Kubanza kwa mushime, menekenu kubata. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Ayuwe Luanda, ayuwe Angola. Ayuwe Bahia, é tu mujete. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulembera Milena, da magia Kalundu. Angola, ritual, África no Zolotu. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Salvador da tradição, Mulemba Shangola. Unidas nações, saudai-vos agora. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, lui è Bonga, appunto Bonga, poi era un atleta molto riconosciuto in Portogallo, ma divenne anche un sostenitore della lotta di liberazione dell'Angola, tant'è che appunto fu espulso dal Portogallo e nel 1972 se ne andò a Rotterdam in esilio, dove scelse appunto il nome di Bonga Kwenda e registrò il suo primo album in Angola 1972. Allora all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico, questa è Radio Africa. E insomma in quel periodo, negli anni 70, poi crescevano anche i club e i festival di strada in questi luoghi, appunto, che erano le musseche, erano i luoghi preferiti dove i giovani angolani insomma cominciavano anche a cercare un nuovo sound, ispirandosi alla musica e alle lingue locali, ma guardando anche al di fuori, verso il Congo, verso Cuba, gli Stati Uniti e l'Europa. Chitarre e strumenti europei si combinavano con la dikansa e il kitsangé, che sono due strumenti tipici dell'Angola, per creare un nuovo suono, e spesso i testi che venivano espressi in lingue locali erano testi che raccontavano la vita quotidiana e le difficoltà di un paese che era sotto il tallone del colonialismo. Uno di questi gruppi che uscivano da questo ambiente sono stati sicuramente i Jovens du Prenda. Allora ce li ascoltiamo in questo brano, Ilha Virgem. Lourdes Duprenda, questo è il nome del gruppo che registrarono nel 1974 questa Ilha Virgen, e nel 72 invece era la data di nascita di Paulo Flores, che era nato a Luanda ma ha passato la sua infanzia a Lisbona. Lui scrive musica in portoghese ma anche in kibundo, e una musica che spesso nei suoi testi parla della difficoltà della vita degli angolani, della guerra, delle tracce della dura eredità della guerra, della corruzione. Uno stile musicale che lui stesso definisce semba. E allora lui è Paulo Flores e il brano è U Povo. Colocou tu, colocou tu, uau, uau. Colocou tu, colocou tu. paura. E allora lui appunto si chiama Paulo Flores, Upovu, questo brano che è cantato con uno stile che lui stesso definisce kizomba, perché lui appunto suona il semba, ma che è una sorta di antenato del samba, ma il semba si incrocia con lo zouk, un genere tipico delle isole caraibiche, e quindi diciamo che esce fuori il kizomba, è questo genere molto ritmato e veloce, ma qui stiamo parlando di anni 80, infatti Paulo Flores è della nuova generazione. Ma ritorniamo con un passo indietro, anzi un po' più di un passo indietro, negli anni 50 a Luanda, perché lì a Luanda, proprio intorno agli anni 50, crebbe un sentimento di indipendenza nazionale, soprattutto fra le élite urbane, che appunto erano state costrette a spostarsi dal centro verso le Musseche, e che entrarono in contatto con altri africani provenienti dalle aree rurali, identificandosi sempre di più con l'identità africana in contrapposizione con il potere coloniale portoghese. E questa identificazione passava attraverso la musica, la danza, il cibo e anche il modo di vestirsi. E negli anni 50 nacquero molti club di football, gruppi di carnevale, incontri che il sabato pomeriggio vedevano esibirsi vari gruppi musicali legati alla cultura delle Musseche. Si emersero molti gruppi che venivano definiti turmas, cioè gruppi di giovani che cantavano e suonavano insieme dopo la scuola o il lavoro, e che costituirono la base da cui emersero appunto i gruppi degli anni 60. Pensate che il carnevale fu proibito dal 61 al 68 dal potere coloniale portoghese, ma le turmas continuarono a crescere, ci furono tantissime jam session, e che furono anche l'occasione di scambio fra musicisti di diverse generazioni. Questi gruppi appunto crescevano anche al di fuori delle turmas. E uno di questi gruppi che appunto proviene da queste situazioni sono sicuramente Uscorimbas, e li ascoltiamo in questa Semba Bragues. Suca Rebelda. We'll be right back. Abbiamo fatto un salto nel tempo dalla semba che abbiamo ascoltato prima a questa reinterpretazione di un brano di Blas Firmino in chiave moderna, Nufeco, da parte di Nufeco di Sole, un gruppo musicale che fa parte della crew di Secusé, che reinterpreta in maniera moderna, attraverso anche dei sampler, i brani della tradizione musicale angolana degli anni appunto 70, quelli che appunto stiamo guardando un po' al microscopio qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Questa è Radio Africa 1717, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenze. Allora, ancora attraversiamo il paesaggio angolano di quel periodo. Loro si chiamano Usbongus, uno dei gruppi più interessanti di quella fase, e allora il brano che ci ascoltiamo è Kazukuta. Allora siamo a metà degli anni 70 in Angola, loro sono i Sbongos con questo brano Casu Kutam, un brano veramente modernissimo, e lo confrontiamo con un'altra rielaborazione da parte di Pedro Coquignon, Bruno Lobato, una rielaborazione di un brano, anche questo un classico, che si chiama Esther Madonna di alias Machiadi, il brano è Allegria in questa compilation Bacida che ci dà, Bacida è la brasiliana, che ci dà un'idea di come appunto questa tradizione musicale angolana venga rielaborata dalle giovani generazioni e rimessa in circolazione. Pedro Coquignon, Bruno Lobato in questo brano Allegria, un brano appunto dove si ascoltano anche le sonorità di alias Machiadi, e quindi questa è la nuova generazione che si affaccia sulla scena musicale angolana, ma naturalmente non manca l'hip hop. Das Primeiro, detto Das Primeiro, che il vero nome è Rui da Silva, è uno degli MC angolani più riconosciuti, soprattutto con il suo brano Liberdade. E allora lui se ne andò dalla sua Angola durante la guerra civile, poi si è andato in Portogallo dove ebbe un'esperienza significativa della cosiddetta ospitalità del Portogallo, perché appunto le leggi restrittive contro l'immigrazione e la xenofobia lo indussero ad andarsene in Olanda, dove appunto cominciò a imparare l'inglese e l'olandese, e poi appunto Da qui cominciarono i suoi live e continuò però a cantare naturalmente della sua terra, della sua Angola, da Spinheiro Liberdade. Estou a entrar a destruir o circo da miséria. Pop de expressão portuguesa, coisa séria. Cena inglês, o que eu atiro é beleza. Não despreze, armado com palavras e contra mim não há defesa. Quase 30, desgraçado pela ciência. O cabelo está caído, vou tolerar a paciência. Levanta do mic, mano, sinta tua presença. Escuta, sente o meu suor, mexe a cabeça. Suspira, grite essas mais não as atira. Admira-se, movisa a farfalhar essa batida. Deixe mais alguns anos nesta pista de guerra na terra e ouvi tuas mentiras. Trago luz às mentes com português que vem da África. Os afros, lusos, cafusos e confusos. Ponhas mais no ar e mexes a cabeça. Cabeça. Liberdade, nas primeiras da frase. Liberdade, que é uma rasta frase. Liberdade, trouxemos o som. Liberdade, improvisamos assim. Liberdade, nas primeiras da frase. Quem libertou, trouxe o sol de março, esperou. Não se cansou, promessa, viu, não largou. Mike queimou, rimando, dando esse flow. Quem te matou, reggae e pop com tom de caldeirada bem cozida. Sem complexos, reflexo, realidade. Sou o mambo deste jungle. Trago estragos às palavras e eu mastigo a maço. Escrevo versos clássicos, espontâneos, matemáticos. Narro, improviso, a vida na Babilônia. E a caneta entre os dedos, mostro o efeito da maconha. Analisas rimas, se não tens medo e se vergonha. Ponhas mais no ar que das primeiro está no ar. Assim. Liberdade, das primeiro está a frase. Liberdade, que é uma rasta frase. Liberdade, trouxemos o som. Liberdade, improvisamos assim. Liberdade, das primeiro está a frase. Liberdade, que é uma rasta frase. Liberdade, trouxemos o som. Liberdade, improvisamos assim. Com hip hop vem mudar as mentes. Mentes incompetentes, antes estou presente à tua beira, mesmo ausente. Alerta, frente, dar como armas o que aparece à minha frente. Unha, densa de rasgar cá por dentro. Tiro obscurantismo, ensino-te orgulhaste e a cantaste. Liberdade na vida negra tem de chegar. Ter força, uma força armada. Cachupa rica de madrugada. Minha luz estrela já armando giração. Expressão para unidade, valorizar-nos amizade para sempre. Ultimamente já temos gente, é cá sabemos ver para frente. Pega saias, ganha braço, bico, escus, não oi perna. Nós, minha tocha nessa indústria de hip hop. Liberdade, nas primeiras da frase. Liberdade, que é uma rasta frase. Liberdade, trouxemos o som. Liberdade, improvisamos assim. Liberdade, nas primeiras da frase. Liberdade, que é uma rasta frase. Liberdade, trouxemos o som. Liberdade, improvisamos assim. Liberdade, oh oh oh oh oh. Da Spinheiro Liberdade, questa appunto la scena musicale dell'Angola che abbiamo attraversato dagli anni 70 fino ai tempi nostri, 17 e 28 all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, 06 49 17 50 il contatto telefonico, questa è Radio Africa. E allora ancora un giovane che comunque si confronta con la tradizione musicale angolana, lui si chiama Lulendo ed è riuscito a entrare dentro, mettere dentro le sonorità elettroniche alcuni strumenti tradizionali angolani con dei risultati molto interessanti. Il brano che ci ascoltiamo è stato un suo successo ai primi anni del 2000, A chi profitti le cream, rimissato dal No Project, e allora lui è Lulendo. Ils ont décidé de mon sort. Ils m'ont jugé avant de m'avoir entendu. Le crime, Sentite, canta in francese, ma lui appunto è angolano e riesce a incrociare la musica elettronica con le sonorità tradizionali dell'Angola. Anche qui i suoi testi parlano della difficoltà di vivere in quel paese, delle sofferenze e della eredità sanguinosa della guerra civile. Mama, mama, mama, yeah. Ethiopia, my mama, yeah. Mama, mama, mama, yeah. Ethiopia, my mama. E allora, Radio Onda Rossa, 87.9 nella modulazione di frequenza, questa è Radio Africa, 17.35, l'ultima parte della nostra trasmissione la dedichiamo a degli approfondimenti sugli eventi africani. Questa volta ci concentriamo sul Centrafrica, dove la situazione diventa particolarmente complicata, poiché appunto stanno per arrivare i soldati francesi. C'è stato a marzo l'arrivo dei ribelli di Seleka a Bangui, insomma con massacri e situazione estremamente complicata. Cerchiamo di capirci qualcosa con l'aiuto di Gianfranco Belgrano, che è un collaboratore di un sito di informazioni internazionali che si chiama Atlas di Info Africa. Pronto Gianfranco, mi senti? Sì, pronto, buonasera, ti sento benissimo. Benissimo. Allora, cerchiamo un po' di inquadrare quali sono soprattutto le ultime novità dalla capitale, da Bangui. So che hai insomma dei collegamenti diretti con il Centrafrica. A quanto pare, a quanto dice l'AFP, le forze di Seleka si stanno allontanando e i francesi cominciano a pattugliare le strade. Allora, sicuramente c'è una situazione in divenire, che sta cambiando di ora in ora, di giorno in giorno. Anche quando parliamo di Seleka, quindi di questo gruppo ribelle, dobbiamo anche stare attenti a inquadrarlo bene. Se era un'alleanza di Seleka in lingua franco significa alleanza. Se quando si è cominciato a parlare di Seleka parlavamo di un'alleanza di diversi gruppi ribelli che si stavano opponendo in quel momento, e parlo del dicembre dello scorso anno, all'ex presidente Bozizé, adesso la Seleka di fatto non esiste, è una cozzaglia di gruppi e di bande armate che di fatto stanno mettendo a soqquadro, stanno saccheggiando diverse zone del paese. La situazione di Bangui, tra l'altro, che è quella che riusciamo a monitorare meglio, è anche quella che paradossalmente è forse la meno difficile. Probabilmente nelle zone interne del paese, in alcune città di media grandezza, invece stanno avvenendo delle cose di cui forse non siamo a conoscenza, ma che probabilmente sono ancora più pesanti e difficili per la popolazione locale. Migliaia di persone, migliaia sono gli sfollati, migliaia di persone hanno trovato rifugio in Congo oppure nella foresta, o ancora cercando di cambiare quartiere, per esempio a Bangui. Stanno arrivando, sì, i militari francesi, che in realtà sono già presenti con una loro forza da diverso tempo a Bangui, nella zona dell'aeroporto. Dispongono di circa 450 uomini. Da qui a qualche settimana questi uomini dovrebbero diventare 1200. In queste ore si stanno organizzando da un punto di vista logistico, quindi stanno allargando la loro base per consentire ai militari francesi che intanto arrivano in Camerun o che arriveranno da altre zone, per esempio anche dal Mali, si stanno organizzando per poterli ospitare, diciamo, questa loro base di Bangui. E questo è un po' il quadro della situazione in questo momento. Bisognerebbe aggiungere anche che la popolazione, per quanto possibile, dove possibile, si sta organizzando anche milizie di autodifesa per in qualche modo cercare di contrastare e difendersi da incursioni ribelli o da incursioni di queste squadre di uomini armati, che sono originari per lo più dal Chad, dal Sudan, ma che in questi mesi hanno anche avuto la possibilità di assoldare o inquadrare tra le proprie fila centrafricani, tantissimi anche minori. Quindi un po' questo è il quadro, sì, della situazione. Senti, il Centrafrica per la Francia è sempre stato, diciamo, dal punto di vista strategico molto importante. Lì loro hanno già due basi militari, era una piattaforma verso il Chad e verso la Libia di Gheddafi, e hanno sostenuto da sempre i presidenti o gli imperatori, come fu il caso di Bokassa, centroafricani, e lo stesso Bozizé. Il fatto che ci sia stata in qualche maniera un allentamento, o meglio che Séléka sia arrivata a conquistare la capitale in un momento in cui la Francia era impegnata sul fronte maliano e anche le truppe del Chad che hanno sostenuto evidentemente anche l'arrivo di questi ribelli. Insomma, cambia un po' gli equilibri nella regione. Qual è per esempio stato anche il ruolo dei sudafricani che comunque fino alla caduta di Bozizé erano presenti con una forza di interposizione, tant'è che hanno avuto 13 vittime durante gli scontri. Sì, allora Bozizé prende il potere nel 2003, anche lui con un colpo di Stato. Tra virgolette l'errore che commette è quello di voler diversificare un po' il panorama delle aziende e dei paesi che in quel momento operano in Centrafrica, che è un paese ricco di risorse, non ancora sfruttate appieno. Quando dico ricco di risorse intendo dire che ci sono giacimenti di petrolio, c'è uranio, ci sono diamanti e c'è oro. Il fatto di voler diversificare un po' e quindi di allontanarsi dalla Francia, che è ex potenza coloniale ma di fatto vero controllore dell'economia centroafricana, così come lo è di tanti altri paesi africani che facevano parte del suo impero coloniale, questa volontà ha portato ad aprire il paese ai cinesi, per esempio, e anche ai sudafricani. Con il Sudafrica c'era anche un accordo di cooperazione militare che prevedeva, tra le altre cose, la presenza di un piccolo contingente di militari sudafricani, circa 400 uomini, che hanno cercato anche loro di opporsi all'avanzata dei ribelli. E questo era un po' il quadro economico quando Bozizé arriva al potere e quello che poi ha cercato di fare subito dopo. I francesi probabilmente hanno in qualche modo perso posizioni con Bozizé, soprattutto nella seconda parte della sua presidenza. Allo stesso tempo il Chad è particolarmente interessato alle sorti del Centrafrica, perché sta sfruttando un giacimento di petrolio al confine con il Centrafrica. Un Centrafrica forte significa in qualche modo dover fare i conti anche con dover dividersi un po' quella torta che è rappresentata da questo giacimento di petrolio che il Chad sta sfruttando da circa 10 anni. Ora, diversi osservatori, persone, testimoni che anche noi siamo riusciti a contattare in Centrafrica hanno avuto l'impressione, ma hanno anche dei dati concreti per poter dire che quando i ribelli della Séléka scendono da nord verso sud, in effetti trovano campo libero, anche perché godono di un qualche tipo di sostegno da parte del Chad e non trovano nemmeno l'opposizione da parte dei francesi. L'impressione che si ha adesso è che la situazione sia sfuggita di mano. Questi gruppi ribelli che già erano tenuti insieme da un collante molto debole, nel corso di questi mesi si sono sfaldati, si sono frantumati in gruppi che complessivamente possono contare su migliaia di uomini armati, ma che sparpagliandosi poi sul territorio di fatto operano come gruppi di banditi, che forse anche per questo motivo sono addirittura ancora più pericolosi per la popolazione civile. Senti, si parla di una situazione di pre-genocidio quasi, così almeno insomma, o si sta drammatizzando effettivamente la situazione per poi giustificare un intervento militare, e si parla anche del fatto che i ribelli sono musulmani e si accaniscono contro i cristiani. C'è effettivamente questa divisione, questo scontro interreligioso o sono semplicemente delle drammatizzazioni ad uso appunto di chi vuole effettivamente poi drammatizzare la situazione per poter giustificare un intervento militare sul posto? Innanzitutto non abuserei del termine genocidio. Secondo me sì, c'è una drammatizzazione che probabilmente diventa strumentale per favorire in qualche modo anche un intervento esterno e quindi favorire anche alcune prese di posizione magari nell'ambito delle Nazioni Unite. Si gioca parecchio poi sull'elemento religioso. È vero che i membri della Seleca o dell'ex Seleca, sulla carta è stata sciolta un paio di mesi fa, sono musulmani, cercano spesso riparo all'interno dei quartieri musulmani e probabilmente hanno anche ottenuto sostegno da parte di quella della popolazione musulmana centrafricana o di alcuna o di una frazione dei musulmani in Centrafrica. Starei attento a dire che stiamo parlando di contrapposizioni religiose, che tutto nasce da una contrapposizione religiosa. Io vedo ancora una volta elementi economici o lotte di potere dietro quanto sta avvenendo, per cui l'elemento religioso lo metterei in seconda posizione, anche se c'è qualcuno che sta provando a strumentalizzarlo a proprio beneficio. Sì. È anche vero, sentendo le nostre fonti sul posto, che se tutti aspettano l'intervento francese perché potrebbe mettere fine a una situazione di anarchia di fatto e di violenza, molte nostre fonti ci dicono di temere che successivamente si potrebbe aprire anche una seconda fase di vendette, in cui chi ha subito oggi potrebbe approfittare domani di equilibri diversi, di una situazione diversa, per fare qualcosa di simile a quanto sta avvenendo adesso, insomma. Sì, creando poi una spirale, insomma, una spirale senza di violenza fine, che in Centrafrica non è mai esistita. In Centrafrica musulmani, cristiani hanno convissuto fino all'altro ieri, per cui tutto quello che sta avvenendo adesso è completamente nuovo. È nuovo anche per chi vive in Centrafrica, di conseguenza gli effetti di quanto sta avvenendo sono, per così dire, incerti. Non possiamo sapere bene che cosa potrà avvenire non appena ci sarà l'intervento militare francese, e bisognerà anche vedere questo intervento se sarà limitato alla sola capitale oppure se riguarderà altre città. Sì, perché poi il problema sarà non solamente mandare via quelli di Seleca da Bangui, ma anche una volta che loro si rifugiano nel Brus, nella foresta, chi andrà a stanarli, per così dire. E questo forse poi è anche un effetto di quello che di come si sta muovendo lo scenario in quell'area dopo l'intervento francese in Mali, dopo l'attivismo francese in Libia. Insomma, sembra che la Francia stia ritornando in grande spolvero sullo scenario africano. Anche sì, perché sta cercando di guadagnare delle posizioni che sono state in qualche maniera contrastate dall'influenza cinese e anche quella americana. Si parla tanto di cinesi in Africa. La Francia in realtà è tuttora il primo paese investitore in Africa. Abbiamo visto come opera in Costa d'Avorio, abbiamo visto come opera in Libia, abbiamo visto anche in Mali. Ovvero difende i propri interessi anche servendosi dello strumento militare. In Costa d'Avorio lo ha fatto sostenendo quella parte, quei ribelli che poi adesso sono al potere e che sono rappresentati dal attuale presidente, che Guattara. In Mali l'intervento è servito anche lì per mettere al sicuro una serie di interessi che vanno dal Mali ma anche al vicino Niger. C'è stata la Libia e adesso vediamo che anche il Centrafrica, che ha delle risorse importanti che possono essere appetibili per chiunque, anche lì stiamo vedendo che i francesi si stanno muovendo. A questo proposito, forse un dato o un elemento può spiegare tante cose. Lo scorso aprile l'attuale presidente, che si chiama Michel Djotodia e che era il capo della Seleca, tra i primi provvedimenti che ha preso una volta arrivato al potere, ha deciso di sospendere i contratti di esplorazione di risorse come il petrolio, che erano state affidate durante la presenza di Bozizé a imprese cinesi e sudafricane, in particolare alla CNPC, che è cinese, e la Dig Oil, che è sudafricana, e ha annunciato una serie di misure di apertura nei confronti della Francia e degli Stati Uniti, dicendo che avrebbe chiesto alla Francia di formare le forze armate centrafricane e che in sostanza avrebbe riaperto il paese ai capitali francesi e statunitensi. Quindi forse questo un po' spiega anche quali sono gli equilibri nuovi che si stanno cercando in Centrafrica. Certo. Bene, si sono fatte 17:50. Allora Gianfranco, io ti ringrazio di questa insomma chiacchierata, poi speriamo di riuscire a dare continuità insomma a questi nostri incontri telefonici con gli amici di Atlas e di Info Africa. Vediamo un po' se ci riusciamo e quindi insomma, speriamo di aver dato comunque un quadro un po' più approfondito rispetto a quello che si vede si legge nella stampa quotidiana italiana della situazione in Centrafrica. Grazie a te. Ti ringrazio. A presto. Ciao, a presto. Allora 17:51 Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. Abbiamo approfondito la situazione in Centrafrica con un collaboratore della rivista online di politica internazionale Atlas e Info Africa. Anaga gratchen etemal la lemente fallen en kwanenya mane my betenem andenya oroma te grema grage nuru we jande no tonight nam zare mama mama mama ye Ethiopia my mama ye Nishna, who is it? Ababa, and you can dall'Etiopia, Invisible System. Mama Ye, il brano. Mama Ye. E allora un'altra notizia, insomma, interessante, che riguarda un avvenimento che ha a che vedere con la memoria del Belgio, in particolare in un quartiere che si chiama di Bruxelles, che si chiama Matonge, un quartiere dove fin dagli anni 50 sono arrivati tantissimi congolesi. Ebbene, c'è stata una proposta da parte della maggioranza del Consiglio Comunale, socialisti e liberali, di creare una piazza, nominare una piazza ricordando Patrice Lumumba, eroe dell'indipendenza del Congo, un quartiere, quello Matonge, dove ogni anno si fa una festa, dove a giugno una festa molto bella, dove appunto si sente, si respira proprio l'atmosfera di un quartiere di Kinshasa, e si fa anche per ricordare quello che è successo circa una decina di anni fa, quando un giovane fu ucciso dalla polizia proprio in quel quartiere. E allora l'opposizione del Consiglio Comunale si è opposta a questa scelta di dedicare una piazza a Patrice Lumumba, e quindi ne è nato un caso politico. Un caso politico che effettivamente lascia un po' perplessi, considerando che girando per le strade di Bruxelles si trovano intere piazze, statue e interi viali dedicati a Leopoldo II, che aveva la proprietà personale del Belgio, sotto il cui governo morirono quasi 10 milioni di congolesi. E quindi, insomma, evidentemente c'è una certa schizofrenia e difficile e ancora adesso nel 2013 dedicare una piazza di un quartiere peraltro abitato in stragrande maggioranza da congolesi a Patrice Lumumba, mentre invece appunto le statue del genocidario Leopoldo II ancora svettano nel cielo di Bruxelles. Hey young people in the world, France to the UK, J.A. to Marley, how we do? Yo, decent people, stand up and be equal. Yeah. Yeah, one finger in the air. I swing from the left to the right. So hard. child. Up in the sky when we wave it, wave it so. Scan for shame when we rearrange it so. Look into the matter and prepare thyself. Get a little knowledge in the deeper well. Step, step, step up, people in the pepper. Up fire blaze all over the place. We engage, most proud to say so. Sabato Radio Africa si conclude qua e lasciamo i microfoni e il mixer a Soul Peanuts, al suo jazz. Vi ricordo che si è tenuta questo pomeriggio un sit-in per denunciare il vertice italo-israeliano che si terrà in questi giorni, prima a Roma, prima doveva essere a Torino dove era stata convocata una manifestazione nazionale, invece poi si è spostato qua a Roma e lunedì 2 dicembre dalle 10 fino alle 15 ci sarà un ulteriore presidio ai giardini di Castel Sant'Angelo per appunto denunciare la natura di questo vertice, che è un vertice che soprattutto verterà sullo scambio di informazioni anche militari e anche commerciali, considerando appunto il sostegno che l'Italia fa a un governo come quello di Israeliano, che si sta macchiando di crimini contro i palestinesi. E quindi, insomma, le scelte di questo governo, che sembra apparentemente così instabile e debole sul piano interno, invece sul piano internazionale sono decisamente schierate.